lo farò. Buonasera a tutti, ho il piacere e l'onore di presentare Maria Rosaria Valentini a chiusura di questo, l'abbiamo chiamato sulla stampa Festival Tascabile, comunque la terza edizione, che a quanto mi dicono potrebbe anche continuare, speriamo, perché confido che vi siete divertiti e vi siete appassionati con i nostri autori, anche col dibattito iniziale. Maria Rosaria Valentini è di origine frosinonese, quindi centro Italia, centro sud Italia. Abita in Ticino da? All'incirca 20 anni. Da circa 20 anni. Sì. L'ha scelto per la sua bella parlata ticinese o per altri motivi? Sì, sì, no, adesso parli anche un po' da dialetto. Ecco, bravissima. Comunque scrive in italiano perfetto, fra l'altro è una di quelle scrittrici italiane, secondo me, più pregnanti, che hanno uno stile tutto particolare, che sa descrivere la natura, le persone, sa anche mettere della poesia nei suoi testi, sa far funzionare molto bene i testi ed esprime dei personaggi che veramente oserei definire meravigliosi. Difatti il suo ultimo romanzo, che forse è quello di maggior successo, lo dirà poi la storia letteraria, naturalmente si chiama Magnifica, anche lì il personaggio principale è magnifico, anche se si tratta poi della madre del personaggio Magnifica. Ecco, presentiamo brevemente Maria Rosaria Valentini, di formazione traduttrice, che però non fa la traduttrice. Che cosa fa Maria Rosaria Valentini nella vita di tutti i giorni, oltre che scrivere? È la scrittrice, La scrittrice full time, bene, ottimo. La scrittrice full time, la meditatrice, si può dire. La meditatrice letteraria, sì, ma sì. Vedo che ha scritto parecchi romanzi, io ho scelto gli ultimi tre, che mi sono parsi i più significativi, fra l'altro ce ne sono altre due sue opere lì alla bancarella, vi invito caldamente a prendere i suoi libri perché scoprirete dei personaggi meravigliosi. Quindi Maria Rosaria, questo tuo salto di qualità negli ultimi anni di scrivere romanzi lunghi, complessi, partendo magari da Antonia per arrivare a Magnifica, cosa è dovuto? Ma una questione semplicissima, io credo che la scrittura non sia un dono, tante volte si dice brava, no, hai il dono della scrittura, la scrittura in realtà è una disciplina, quindi la capacità di dedicarsi a un'attività nei confronti della quale certamente si ha una certa predisposizione. E quindi un passo alla volta, ecco, che sono arrivata a questi ultimi libri. Poi corrisponde anche a caratteri personali, sono una persona un po' timida e quindi ho iniziato con i passi brevi. E poi mano a mano ho cominciato a calibrare in maniera diversa le mie potenzialità. Ecco, potenzialità molto grandi, parleremo appunto di questi ultimi tre romanzi, dove le protagoniste di ognuno di essi cominciano con la lettera A, in Antonia ovviamente Antonia, in Mimose a dicembre Adriana, fra l'altro una giovane badante rumena, e in Magnifica, la protagonista in realtà non è Magnifica ma sua madre Ada Maria. Ecco, c'è qualcosa prima nel nostro piccolo incontro così di, diciamo, di strategia, sì. Maria Rosaria mi ha detto che questi personaggi sono resilienti, sono delle donne, sì, resistenti. Ecco, si tratta, il secondo romanzo in realtà, quello che parla della badante romena, è ambientato al giorno d'oggi, no? Mm-hmm. È una problematica del giorno d'oggi, però sembra che questo personaggio provenga dal passato, sembra che tutta la Romania accennata nel romanzo provenga dal passato, è ancora un paese rurale, i rapporti fra le persone sono diversi che da noi, però tutti questi personaggi che abitano, diciamo, nel centro-sud Italia e che sono magari rapportabili a una 50 d'anni fa, agli anni 60, eccetera, vivono in quasi una specie di passato che sembra ritornare. Cioè, al giorno d'oggi, come vede Maria Rosaria Valentini il ruolo di questa donna resiliente? Ancora spazio a una donna resiliente, resistente? Che poi tutte queste donne in qualche modo tengono su o intere famiglie o delle persone a cui praticamente regalano degli apporti significativi di sentimento, ma di sentimento sincero. Ecco, qual è, visti i tre romanzi, diciamo in parallelo, il ruolo di queste donne fortissime in qualche modo, molto più forti dei maschi che incontriamo, anche se interessanti nei romanzi? Dunque, sì, le donne sono molto forti e per rispondere al primo quesito, sì, io credo che ci siano ancora queste donne così forti oggi, perché tante volte ci limitiamo un po' a una geografia, se vogliamo, di quartiere, ci guardiamo attorno e più o meno da noi questo funziona e quindi probabilmente altrove non succede. E invece molti luoghi, forse neanche poi tanto distanti dalla nostra geografia ristretta, ci sono delle donne che ancora hanno le redini della famiglia in una maniera molto semplice, no? Sono capaci ancora di portare avanti con un senso pratico, di andare oltre le difficoltà, e sono queste piccole donne di cui nessuno racconterebbe qualcosa, perché gli avvenimenti non sono eclatanti, il quotidiano che loro sviluppano è assolutamente semplice, addirittura banale, una madre fa la madre evidentemente, però cerca con tutti i mezzi di portare avanti quella che è la sua energia interiore e può in questo modo cambiare il corso della vita di un'intera famiglia, può migliorare le famiglie, può migliorare un destino, può diciamo estrinsecare delle generosità estremamente potenti, e quindi io credo sì, esistono ancora queste figure femminili, ce ne sono ovunque. Questo non vuol dire che gli uomini non siano capaci di fare altrettanto. Però a me piace molto dedicare spazio alle donne, perché troppo spesso a loro è negata ed è sottratta una dignità che invece appartiene e a loro va riconosciuta. Ecco, troppe volte rimaniamo silenti su aspetti che invece andrebbero indagati di più. Io non ho mezzi particolari per farlo, per sostenere appunto le cause femminili, però la scrittura che mi aiuta a mettere in luce, ad evidenziare determinati aspetti. Ecco, adesso cercheremo di evidenziare questi aspetti. Io inviterei appunto Maria Rosaria a leggere di ognuno di questi libri dei brevi brani, magari una paginetta, una mezza pagina, per presentare i personaggi principali e anche le loro interazioni. Cominciamo allora da Antonia, dal libro Antonia, che è il primo di questi tre in ordine, diciamo, temporale, dove, pagina 62, no? Mm-hmm. Dove ci sarà una scena dove vedrete, si citeranno le mitiche, famosissime, imperdibili affinità elettive di Goethe, riprese da Maria Rosaria Valentini al tempo di oggi, o quasi. Intanto vi chiedo scusa per l'uso degli occhiali da sole, ma ho un problema agli occhi e quindi dovrò far ricorso più di una volta agli occhiali. Dunque, in Antonia ci sono due figure, Antonia e Charlie, che si incontrano dopo tanto tempo e chiarificano i loro reciproci compiti e anche ruoli all'interno della famiglia. In seguito a questo incontro vengono a galla tante realtà taciute. Avrei voluto risponderle subito, avrei voluto vederla e perfino rincorrerla e abbracciarla forte, quella mia cugina Antonia. Ma a volte non si fanno proprio le cose che più profondamente si desiderano. Così, stupidamente, mi accartocciai. Natale arrivò veloce come sempre. Antonia si fece viva ancora. Su un cartoncino bianco scrisse con andatura delicata ma vagamente tremante: Als wenn sich eine Scheidewand zwischen ihm und Ottilien niedergelegt hätte. Come se un muro fosse stato abbattuto tra lui ed Ottilia. D'improvviso la vidi limpidamente. Eravamo nella villa comunale. Antonia stava al mio fianco. A voce alta leggeva Le Wahlverwandtschaften di Goethe in un'edizione con traduzione a fronte. Antonia, la testarda di sempre. Non sapeva allora il tedesco, ma voleva comunque capire. E insieme ci calavamo a piedi nudi nel giardino di Edoardo e Ottilia, di Carlotta e del capitano. Insieme camminavamo, bustando immobili, in un verde che prometteva venire, contemplando i pioppi, i platani, lo stagno. Antonia mi guidava tra musco e rocce, di sasso in sasso, senza timore né affanno, come se ogni muro fosse stato abbattuto per sempre tra di noi. In quelle marce erratiche il tempo ci diventava indifferente. I nostri passi erano ghirlande che non distinguevano stagioni, ovunque un germogliare di garofani e orecchie d'oro, e ovunque gli astri. Ecco, questi sono i due personaggi, i due cugini, che poi scopriranno di essere anche qualcos'altro, che si incontrano e si ritrovano e che si ritrovano a scoprire una serie di corrispondenze, come in una sorta di gioco di traforo, no? Di corrispondenze all'interno del loro vissuto comune. Ecco, questi due personaggi, i cugini, che poi appunto si scoprirà che sono anche più di cugini, sì. In qualche modo crescono insieme e si sostengono a vicenda, però dentro a una, diciamo, a una vicenda anche abbastanza drammatica, familiare, a una storia che si potrebbe definire di altri tempi, anche di violenze domestiche, di necessità di emigrazione, di incomprensioni, di, diciamo, di onore perduto, quasi una storia violenta, eppure questi due personaggi emergono come se fossero completamente innocenti, no? Con Antonia che guida e Charlie, che in realtà si chiama Giovanni, ma che il padre è emigrato nel Galles, in Inghilterra, chiama Charlie, che insomma si sostiene ad Antonia, rincontrata dopo anni, e loro hanno questa relazione profondissima. Le affinità lettive, loro veramente vivono le affinità lettive. Nella seconda parte del romanzo, pure molto interessante, emerge poi dai ricordi tutta la storia in qualche modo tragica della famiglia. Ecco, adesso io inviterei Maria Rosaria ancora a leggerci un'altra pagina che tratta di Maria Regina, che poi si scopre che è la madre di entrambi. E quindi sono fratellastri addirittura. Sì. E questa donna ha una storia proprio tragica di emigrazione e di violenze subite, no? Sì, diciamo che il libro effettivamente può sembrare un libro di altri tempi, ma in realtà quanti problemi di emigrazione, di violenza domestica, quanti problemi di questo tipo risuonano nel nostro quotidiano, no? Quindi è un passato che tuttavia purtroppo è ancora molto presente. Ecco, quasi dickensiano in certe, esatto, parti. Maria Regina. La vedo due volte a settimana. Vado a trovarla dopo il lavoro, di solito. Vive in una clinica. Non ho potuto fare altrimenti. Chiama tutti Giovanni, anche me. Certe volte vorrei essere lì dove si trova lei. Ho un modo di parlare svanito, ma preciso, come il tuo. Io mi adeguo e le copio le espressioni, la cadenza, i tempi. In quella mia imitazione verbale trovo una consolazione che non so spiegare. Mi scopro sinceramente vicina a lei e a te, contemporaneamente. Insomma, quel nostro parlare diventa bozzolo. Nel suo quando c'è sempre una tovaglia che si apre sul lungo tavolo rettangolare. In una caraffa trasparente scivola acqua limpida. E su ogni piatto c'è una grande pesca matura, di velluto. Lei siede e aspetta. Aspetta che arrivino gli altri per mangiare, cantare, suonare. pare fissi il vuoto, ma io sono convinta che stia davvero guardando un suo arcipelago di incanti. Quando arrivo mi sorride e con un cenno mi prega di essere silenziosa, cauta. C'è gente che dorme lì attorno. Dice di fare attenzione a non inciampare nel grano. Dice che ha sete, che ha finito i compiti, che il quaderno è sotto le ciliegie. Ha perso una chiave, non sa come tornare al pozzo. Non sa che fine abbia fatto sua madre, allora quasi le viene da piangere. Ma è la debolezza di un istante, neppure inizia e già si arresta. Gioca con le scintille che ballano tra un'incudine e un martello. Sono come piccole lucciole, come briciole di pane. Mi abbraccia sempre Maria Regina, mi bacia, ribacia, dice che non vuole andare nell'orto. Saluta un qualche Giovanni di passaggio, non ha più carta per scrivere, mi chiede di portarla al mare. Io non la deludo, la prendo per mano e la porto verso la finestra. Le indico il cielo che si trasforma per noi in un mare morbido e senza onde. Le piace, ripete grazie, grazie, grazie, grazie. E mi tira un po' i capelli. Le dico che la sua camicetta bianca è proprio bella. E lei, toccando i polsini, risponde che da piccola era una biondina, che anche adesso lo è, forse. Poi arriva la cena, la imbocco. Non vuole mangiare patate e sputa se sospetta la loro presenza nella ciotola. Vuole subito la frutta, la vuole annusare, schiacciare tra le dita, se la mette in tasca nel letto ci vuole dormire. Le dico che potrà, ma domani. Lei ha fiducia e aspetta paziente. Mi prega sempre di tagliarle e limarle le unghie. Lo faccio. La sua mano è serena, tranquilla, calda, abbandonata. Un leggero massaggio sul palmo la rilassa e quasi si addormenta. Allora, lentamente, la porto accanto al letto. Le chiedo di coricarsi. Ubbidisce. Rimbocco le coperte. Mi chiede di restare, di non partire. E io resto. Non dorme subito. Vuole sapere se ho figli. Dico di no. Mi osserva con compassione perché non crede che sia una cosa buona vivere senza figli. La conforto annunciando che ne avrò e dunque si rischiara nel volto. Vuole sapere se Giovanni mi picchia. Rispondo con un no, ma lei non mi crede. Dice che finirà prima o poi, dice di lavarmi. Prometto che lo farò subito. D'un tratto si tira su, affiora dalle lenzuola come un Nettuno spaurito e mi domanda che fine ha fatto Giovanni. Assicuro che sta bene, che lavora tanto, che vive accanto ai vulcani. Allora sorride e ripete vulcano, vulcano. Cerca un fiocco da annodare intorno alla testa e intanto si fa inquieta nella sua magrezza livida e sgomenta. Diventa la Marcella di Kirchner. La sua fragilità fa paura. E poi prosegue questo ritratto appunto della mamma che vive in un altro dove, che è quello dell'Alzheimer. Ecco, ricordatevi che quella che racconta in questa fase del romanzo è Antonia, mentre Giovanni è il suo cugino, ovvero fratellastro, e Maria Regina ha subito talmente tante violenze che pensa che sia inevitabile che Giovanni, ovvero Charlie e Antonia, subiscono lo stesso destino, invece è assolutamente diverso, quindi è come, no, come un destino che sembra non passare. Invece passa proprio per la forza di Antonia, che trascina Charlie e Giovanni fuori anche un po' dalle sue fisime, dalle sue fughe, sì. Lui fa il geologo in Sicilia, eccetera, eccetera. e il libro si chiude, non è un happy end, ma una consapevolezza. Con ecco, una consapevolezza questa... è aperto a un domani. Sì, questa Antonia che veramente è un libro splendido e vi consiglio tanto. Invece per passare al secondo libro dei tre che abbiamo scelto, Mimose dicembre, e qui si tratta proprio di una storia attualissima, perché parla di una giovane ragazza che poi diventa badante in Italia. Una sua amica che è stata in Italia a fare la badante e si è arricchita insomma per gli standard della Romania, torna in Romania ma deve vivere comunque da sola eccetera, e le consiglia di fare questo viaggio semplicemente così nel buio, nell'assoluta sorpresa, con qualcuno che probabilmente l'aspetterà alla stazione degli autobus di Roma dopo un viaggio. Potete immaginarvi Romania, Ungheria, Austria, Italia. Questa ragazza, Adriana, ventenne, si lancia, abbandona anche la madre sofferente, che la madre è sofferente però non la vede quasi più, eccetera, eccetera. Ecco, da Maria Rosaria, da dove ti è venuta l'idea per scrivere un romanzo così attualissimo? Non credo che ci sono molti romanzi sulle badanti, poi così toccanti, per la consapevolezza di questa ragazza romena è in qualche modo incredibile. Poi lei è costretta anche a vivere praticamente segregata nella sua prima esperienza romana presso una donna molto gentile, ma che praticamente non la fanno uscire di casa. Sono delle schiave moderne, no? Sì, esatto, sono delle schiave moderne. Ma intanto il tema dello sradicamento mi è sempre molto vicino, e anche in Antonia c'è questa tematica, appunto, no? Della spinta o della costrizione a dover cercare delle nuove radici. Evidentemente nel caso di Adriana la società in cui viviamo ci offre molti spunti. Per me è molto importante considerare la vecchiaia. Mi spiace un pochino che la vecchiaia venga così medicalizzata oggi, no? Come il vecchio sia educato e contenuto. Io ho il ricordo di un nonno, purtroppo di un nonno solo che ho conosciuto, che però era parte della famiglia e veniva sempre integrato, non era un incomodo, non era un elemento di noia, ma era anzi una figura di riferimento. E questo nonno, certo, chiaramente, non, qualche volta era anche barboso, per carità, non voglio dire, no? Però questo nonno veniva seguito con molta partecipazione, non soltanto dai suoi figli, ma anche da tutti quanti noi nipoti. E la tendenza invece contemporanea di mettere il vecchio, non si dice più il vecchio, si dice l'anziano, no? Addirittura il diversamente giovane, poverini, insomma i vecchi, vengono messi in delle scatole, delle case di cura, oppure vengono affidati alle badanti. Ecco, qui si apre tutto uno spettro di situazioni che sono estremamente spinose, e per l'anziano diventa difficile, quasi impossibile, fare appello al proprio vissuto. Per le badanti è un... chiaramente ci si confronta con delle realtà distanti, estremamente distanti dalle loro origini. Dunque, all'inizio, prima ancora di stendere il libro, ecco, io riflettevo proprio sul ruolo del vecchio, no? Di cosa significa invecchiare, del perché vogliamo tanto medicalizzare. E poi mi sono spesso confrontata su risoluzioni diverse, appunto. In Svizzera si tende molto ad avere un approccio infermieristico. In Italia ci si affida di più alle badanti, e quindi mi chiedevo quale sarà la soluzione migliore. Ecco, partendo da questo ho cominciato a scrivere, è venuta fuori una storia che chiaramente non rispondeva in nessuna maniera al mio quesito, però portava alla luce dei personaggi che non sono reali, perché non ho mai conosciuto un'Adriana, non ho mai conosciuto un Cornelio, non ho mai conosciuto un'Ippolita, ma sono verosimili e che descrivono e corrispondono il disagio che si prova quando si è diversi. Allora non è necessario essere italiano o rumeno o svizzero piuttosto che tedesco, no? Cioè la diversità vuol dire non appartenere ad uno stesso gruppo e improvvisamente dividere qualcosa che c'è molto prezioso, il proprio corpo, ed affidare il corpo di un anziano a una persona che non si conosce, e la persona che è deputata a queste funzioni a sua volta si ritrova a contatto con un corpo che non ha mai visto. Quindi si incastrano delle intimità che possono diventare esplosive. Non sempre questi incontri sono di grande raccordo. E mi sono dedicata a una figura femminile perché sono soprattutto le donne che lasciano, diciamo, i paesi dell'est per la gran parte per venire in Italia o per venire, diciamo, le rumene vanno in Italia, in Spagna prevalentemente, però insomma tutte le altre donne provenienti dall'area dell'est poi scelgono le aree che corrispondono meglio alla loro idea di sistemazione, no? Sono appunto le donne coraggiosissime perché sono giovani in alcuni casi, in altri casi lasciano nella propria terra d'origine dei figli, e questo è un fenomeno molto serio, molto grave, tant'è vero che c'è una generazione proprio di bambini depressi perché le mamme partono per andare a cercare un sostegno economico altrove e dal paese dove cominciano a lavorare cominciano a mandare beni materiali, quindi fanno il famoso pacco e nel pacco includono le scarpe da ginnastica, le maglie, il pettinino, e mandano i soldi, eccetera, eccetera. E poi viene da chiedersi, vale di più una maglietta o vale di più la presenza di una madre? Ecco, questi sono tutti interrogativi che mi così pullulavano, no? nella mia testa al momento della stesura di Mimosi a dicembre. Poi, quando comincio a scrivere, diciamo che parto da alcune intenzioni ed è poi la storia stessa che invece mi presenta altri personaggi oppure mi presenta altre situazioni, e devo avere la cura di incastrare bene tutti gli eventi e tutti i personaggi. Quindi qui troviamo due anziani piuttosto simpatici, ma non è detto che nella realtà tutti gli anziani siano simpatici, e troviamo un'Adriana alquanto corretta, ma non è detto che no, che tutti poi... Ecco, quindi sono mille le storie possibili, perché spesso mi si dice hai voluto stendere un lavoro sociologico. Assolutamente no, raccontare una storia, le storie, i romanzi sono verosimili, ma non sono testi scientifici, non hanno almeno nel mio caso, la volontà e né tantomeno l'arroganza di descrivere nel dettaglio quello che è un fenomeno sociale ampio. Però sono un po' come un sasso lanciato nell'acqua. Sì, come una finestra aperta, ecco. Quella che non trova Adriana, perché guardate che questo romanzo è davvero importante, perché c'è una realtà completamente straniante, e questo secondo me è espresso molto bene da Maria Rosaria, nel fatto che questa ragazza trova questa vecchietta Ippolita, anche molto simpatica, che si affeziona, non ha mai avuto figli, ha una famiglia anche un po' così antipatica, invece la ragazza legano subito, però questa non esce mai. e si innamora, son malgré i francesi, un fornaretto dove va a prendere il pane, questo Antonello, questo fornaretto simpatico, però anche questo, come tutta la sua realtà, no, a Roma è una cosa impalpabile, questo a un certo punto scompare. E Adriana, visto che vive insomma di sensazioni non dirette come noi, che andiamo a lavorare, che andiamo non so, magari a uno stadio, che andiamo al lago, che usciamo di casa, questa stando sempre a casa, a un certo punto fugge via addirittura perché non tollera l'odore del pane, fra l'altro che prima le piaceva di Antonello, e invece dopo ha l'avventura, non sventura, l'avventura davvero di incontrare fuori in campagna, aiutato da un giovane prete, Vincenzo, un altro personaggio appunto corretto, ma anche più di corretto, questo Cornelio, con cui rimarrà, che addirittura la sposerà, anche se lui ha 80 anni e lei 20, ma lo fa per il bene suo della ragazza e per l'odio che prova rispetto alla sua famiglia venale, che vuole solo dividere la sua casetta in questo diciamo comune a pochi passi da Roma. Non so, potremmo magari leggere qualcosa di Cornelio? Sì, volentieri. Ecco. Io posso chiedere un bicchiere per un pochino d'acqua? Però il bicchiere... Questi forse sono... C'è? Funziona? Okay. Sì, questo sì. Ecco, vedrete che Cornelio, anche se Ippolita era poi una vecchietta simpatica, anche materna, è un'altra cosa, un maestro di scuola, un ex maestro di scuola, che ha i figli che sono in parte andati nel Canada, non si sono più fatti praticamente mai più vedere, e altri figli che aspettano il paese solo che questo, praticamente, no? Per appropriarsi dell'eredità. E lui trova in questa ragazza, giovanissima, fra l'altro, una specie di immagine effigie di sua moglie amatissima, defunta, Ermelinda, e in qualche modo se ne innamora, ma ovviamente non carnalmente e senza nessun secondo fine, ma per fare il suo bene. Questo è davvero ben descritto, anche toccante, questo personaggio di Cornelio è notevole. Cornelio chiamava con il sussurro di una supplica, con il tormento del rimpianto, con la brama accesa di un desiderio che cresce su ogni papilla. Diceva: resta in piedi, immobile, dammi le spalle e fermati. Ecco, così, non lasciare che il sole mi arrivi tutto in faccia, ma non chiudere la serranda, voglio la luce e voglio che tu ci sia. Come un faraglione nel mare, come Maria dentro al presepio, come una lingua stretta nella bocca di una serpe di primavera. Ascolta. Ermelinda me la portò l'acqua. Pioveva e io passai sotto i portici accanto al lavatoio per bagnarmi di meno perché ero uscito senza ombrello, sebbene il cielo non promettesse niente di buono. Era pioggia di maggio, quella che gonfia torrenti e bulbi e che ha un profumo verde, blu, bianco. I colori hanno profumo, ma tu forse non lo sai. Non mi aspettavo di trovare qualcuno a lavare panni con quel tempo. Camminavo con il passo evanescente di un fantasma, chiuso nella mia cappa nera. Non l'avrei vista neppure, schiacciato dalla fretta, ma un suo gesto inaspettato colpì la coda del mio occhio. Un lenzuolo attorcigliato su se stesso in una doppia spirale, dopo un'ampia giravolta nell'aria, stava ricadendo sul marmo liscio della vasca e Ermelinda, dopo aver lanciato le braccia verso una meta ignota e verticale, le ritraeva ora verso i propri seni, dando risalto a due polsi sottili che sembravano non appartenere ai gomiti possenti e nodosi che guidavano quei movimenti. Sussultò al mio passaggio spaventandosi, questo lo capii. Si figurava sola in quell'ora di maggio, quando la pioggia è semina furiosa, sì, ma breve. Si figurava sigillata in un dopopranzo di sonnolenti silenzi. Non mi fermai io, lei sì. Si toccò i capelli con l'intento di riordinare alcune ciocche ribelli. Col grembiule si asciugò il viso, solleticato dagli schizzi gelati, e avvicinò i piedi, uno all'altro, cancellando la posa buffa che la coglieva con le gambe leggermente divaricate. E dalle labbra le uscì un buongiorno mesto, che sapeva di scuse e imbarazzo. Ma io non mi voltai. Non avevo tempo da perdere al lavatoio. Non avevo tempo neppure per rispondere a quella ragazzina. Una bolla di sapone, intanto, si era adagiata sul suo collo e lì rimase per qualche secondo prima di scoppiare, sciogliendosi nel nulla. Ma poi, sai come vanno le cose? Le cose vanno come vuole la carne, prima di tutto. Io non avevo visto niente in quel mio passaggio, così pensavo almeno, e invece avevo registrato i particolari. Vissi molto tempo mangiando ermelinda a ogni mio pasto, briciole di futuri improbabili, malleoli dolci come latte di mandorle, dita sottili da incrociare col vento, labbra molli da socchiudere, timpani vigili da far vibrare, talloni fermi sulla mia terra. E quando l'immagine non fu solo solletico, ma divenne malattia, dovetti andare a prendermela, Ermelinda. Lei mi aveva aspettato, sapeva che prima o poi sarei tornato e non si stupì, quindi, del mio arrivo. Era più bella che in quel giorno di maggio, era più morbida, più vera, più saggia. Così la sposai e fu come era, una donna d'organza, di bisso, di spago, dietro ogni nodo, coraggio e pazienza. Ermelinda aveva gli occhi di un azzurro danzante, danzanti anche le sue parole. Ecco, questa è Mimose a dicembre ed è l'amore senile, ma grande, di Cornelio per la sua Ermelinda e del suo racconto alla ragazza Adriana, che in qualche modo ne rinnova l'effigie. Ecco, adesso passiamo, magari un po' più brevemente, perché insomma il tempo trascorre, certo. Poi se vorrete fare delle domande sono naturalmente graditissime, domande a Maria Rosaria. Passiamo al romanzo Magnifica, che forse è il più compiuto dei tre, e narra, oltre che la storia di un'altra di queste donne coraggiosissime, verrebbe da dire Madre Coraggio all'italiana, no? Madre Coraggio di Brecht, mi pare, no? Ecco, in versione italiana. Tratta di una storia di guerra, di dopoguerra, dopoguerra della Seconda Guerra Mondiale, da qualche parte sull'Appennino italiano, in una località isolata, sui monti. Una famiglia, anche qui una famiglia irrisolta, con un padre assente che va a caccia, che tradisce la moglie, e i figli Pietrino e Ada Maria soffrono. Pietrino è un personaggio di un'innocenza assoluta, si perde un po' nei suoi voli, alla fine finirà per fare, insomma, parola brutta, il becchino, ma in modo nel campo santo, il guardiano però lo fa in modo assolutamente poetico. Sceglie le tombe per i vari personaggi, cerca di... Mentre Ada Maria, ancora una volta, è questo personaggio fortissimo che trascina tutti. E poi avrà la figlia come giusto premio, anche lì fra anche un po' di drammi, Magnifica. Però ecco, in questo romanzo c'è come un, diciamo, un qualcosa che spinge tutta la storia, quasi un fantasma. Nel paese si parla, si mormora, ci sono le apparizioni, ci sono i fantasmi, e invece no. C'è questo Benedict, dopo più di 10 anni dalla fine della guerra, un giovanissimo ai tempi della fine della guerra, soldato tedesco, che è rimasto vivo in una grotta vicino al villaggio. Ada Maria, coraggiosissima, lo incontra. Ecco, ma questa storia, Maria Rosaria, è plausibile, è successa, è parte della tua fantasia? Il romanzo funziona benissimo, ma come sei arrivata a questo bene di questo soldato che, fra l'altro, Ada Maria riporterà in vita e che sarà il padre di Magnifica? Dunque, io evidentemente e fortunatamente non ho vissuto guerre in senso classico del termine, però della guerra ho sentito parlare moltissimo da parte dei miei nonni e da parte dei miei genitori, perché mio padre e mia madre erano due bambini al momento della Seconda Guerra Mondiale, vivevano nell'area di Monte Cassino. Quindi mi hanno raccontato gli eventi non in maniera tecnica, non in maniera dettagliata, legata appunto alle strategie, alle battaglie, ma me l'hanno raccontata con gli occhi loro che erano dei bambini, e mi hanno raccontato la paura, lo sgomento, le corse. Mi hanno anche raccontato la solidarietà che c'era, la fratellanza, sembra una parola un po' troppo consumata, no? Ma proprio questa capacità corale di sostenersi nel momento del bisogno. E quindi diciamo che questo racconto orale della guerra è qualcosa che mi è rimasto, no? E mi è venuta poi la voglia di andare a costruire una storia mia intorno a quel vissuto. È possibile che un soldato resti così tanto tempo nascosto? È possibile, anche perché adesso non sono così preparata dal punto di vista delle date, ma esiste il caso di un soldato rimasto per 30 anni, mi sembra. Sì, un giapponese, sì, questo è storico. Sì, vero? Sì, sì. Per 30 anni è rimasto in una sterpaglia, convinto di essere ancora in guerra, quindi un uomo che aveva perso completamente la relazione con il mondo e con il tempo. E questo Benedict è un uomo smarrito, è un fantasma reale e irreale, è l'uomo che rappresenta la diversità e quindi attrae attraverso il mistero, attrae come una calamita da Maria, che è giovane ed è propensa appunto ad incontrare la diversità, il diverso. È chiaro che poi l'incontro con Benedict capovolge un po' l'andamento di tutta la storia e diciamo indirizza in un certo modo anche il percorso di un intero paese. Sì, perché il paese poi in realtà interagisce, ci sono altri personaggi, Teresina, che è l'amante del padre Aniceto, che però poi si rivela una donna di famiglia quando muore Eufrasia, la madre di Ada Maria. C'è tutto un intreccio di paese con questo personaggio che sta un po' a lato, che però in realtà fa andare avanti la storia, perché alla fine tutte le voci, addirittura le vecchiette del villaggio, lasciano del cibo. Alcuni, come Pietrino, il fratello di Ada Maria, pensa che sono tutte storie, invece poi alla fine questo Benedict si ciba davvero di questi avanzi. Loro lo lasciano perché il fantasma non si arrabbi, ma lui è una persona reale, fra l'altro è una persona in qualche modo dolcissima, che tipo a 18-19 anni è rimasto sotto una frana, aiutato dai commilitoni, ma poi lasciato indietro, e che si è adattato a vivere in questo suo mondo. Ci sono delle scene bellissime dove lui a un certo punto Ada Maria lo trova in questa foresta, insomma, comincia a frequentarlo, a portargli il cibo, e ogni tanto va a trovarlo e lui così guarda, si assenta quasi, poi riesce a coinvolgerlo, e purtroppo fine sua anche un po' tragica, però lascia, diciamo, il suo seme per far nascere Magnifica, che poi una ragazza in qualche modo della contemporaneità, vero? Cioè una ragazza che già entra nel mondo nostro attuale. Sì, esatto, perché il romanzo un po' ha una struttura un po' inusuale, nel senso che inizia con la fine del narrato. È una narrazione a colori, quindi dei nostri giorni. Poi c'è un'ampia parte dove si compiono passi all'indietro e quindi è come se comparisse una fotografia bianco e nero, un po' ingiallita dal tempo, zigrinata nei bordi. E dopo ancora la terza immagine che ritorna a colori e si ricolloca nell'oggi, quindi Magnifica, ecco, lei che porta in mano il presente ed è il suo destino, nasce proprio con la speranza di guidare tutti verso il domani, ed è una donna destinata anche, è destinata a tessere la speranza che nel romanzo viene invocata e declinata costantemente, ma anche una donna destinata a confrontarsi con il senso dell'attesa e quindi con il senso del vuoto, dell'impalpabile, con una pazienza che diventa poi linfa di una sorta di autonutrimento, no? Una capacità di resistere, di andare avanti perché ci si nutre di questa pazienza. Ecco, però emblematicamente lei sposa il medico giovane, sì, di sinistra, diciamo, sì, così, mentre il paese è molto tradizionalista, uno un po' che se ne frega, no? Eccetera, eccetera, ma molto razionale, che in qualche modo tira fuori tutto il paese da una sorta, adesso non oserei dire ovviamente medioevo, ma da una sorta di passato, di letargia, di modi di fare, anche di credenze. Sì. È magnifica a un certo punto, forse stimolata sicuramente in qualche modo dal fantasma Benedict, che poi era stato suo padre, in qualche modo ci porta all'oggi. Adesso non so se abbiamo tempo di leggere ancora, ma forse sarebbe più interessante anche se le letture di questi libri, io veramente le consiglio perché lo stile, l'andamento è splendido. Adesso Maria Rosaria ha letto pagine piuttosto di descrizione, ma anche l'intreccio, la storia è molto ben congegnata. Apro le domande se ce ne sono per l'autrice. Prego, dottor Curonici. Così è acceso? Sì. Bene. Allora, mi permetto di fare una domanda sola, che si riferisce non al singolo libro o episodi, ma all'impostazione d'assieme del lavoro della signora Valentini quando scrive e pensa alle cose. Che rapporto c'è fra lei e la realtà? Non lei come persona, ma lei come autrice, cioè che rapporto c'è fra la sua scrittura e la realtà? In altre parole, cos'è per lei il realismo? La realtà è il luogo in cui sono collocata. Il confine tra il reale e l'irreale è però labilissimo. E io mi trovo esattamente su quella corda, lì dove un passo e si cade da una parte, un passo e si precipita dall'altro. Va bene, rifletteremo su questa cosa, ma io pongo un'altra domanda. A che cosa serve la realtà quando si scrive? Oppure, quando si scrive si parla della realtà o si scrive per tagliare la corda e andarsene a spasso altrove? Si parla della realtà quando ci si sente aderenti alla realtà, quando si ha un'urgenza e un bisogno di intervenire, diciamo, in senso civico. Dunque, la sua risposta mi interessa molto. Devo dire che io mi sono permesso questa domanda per rabbia, per collera, non contro di lei, che considero alleata, ma contro una grande quantità di roba scritta pseudorealistica, in cui uno fa finta di parlare dalla realtà, ma è la realtà di quando era bambino, o quando era bambino suo padre, o quando era bambino i suoi nonni. Cioè ciò che fu la realtà. Ciò che fu non è la realtà. La realtà è ciò che è. Perciò su questo sono da un discorso che si riferisca al tempo presente. Sì. A me sembra una condizione indispensabile. Prendiamo un autore di quelli che hanno l'aspetto immortale e eterno. Omero parleva dei fatti suoi. Ce n'era un altro che parlava di Dante e riferisce una quantità enorme di aneddoti della sua epoca. Quando Paolo e Francesca vengono uccisi era una storia di cronaca del momento. E così tantissime altre cose. Quella era la realtà, anche se sembrava altro. Mentre si fa il discorso tanti su una realtà che fu e quindi non è più reale. Mi rendo conto che il discorso detto così è appena iniziato, però mi sembra importante. Ed è anche per questi motivi che mi dichiaro molto sorpreso dalla ottima qualità di queste riunioni di oggi. Mi aspettavo di trovare qualche cosa di valido, di positivo, ma tutto sommato c'è di mezzo questo discorso. Quando vi la donna parla di cosa succede in Albania, è una presenza, quella è la realtà. E qui certo. Mi sembra una cosa simile. Non farò altri interventi, grazie. Grazie. Altre domande? Ecco, allora una brevissima domanda da parte mia per chiudere anche tutto il festival, che spero vi avrà allietati per la terza volta, confido. Grazie fra l'altro al Partito Socialista che l'ha organizzato, fra di noi possiamo dirlo in certi ambiti, bisogna sempre stare un po' più attenti, non vedo perché un partito non possa organizzare un festival letterario, che lo organizzano anche altri partiti se vogliono, perché no. E io vorrei chiedere sulla scia di quello che ha detto il professor Curonici a Maria Rosaria, ecco il realismo, ma non ti riconosci un po' nel realismo magico? Macondo e dintorni, in fin dei conti è una specie di realismo, ma questo per me è un realismo magico all'italiana, cioè c'è la realtà, ma poi ci sono, in ognuno di questi romanzi ci sono dei personaggi che riflettono sulle parole, sulla poesia, sono poetici, non sono dei saputelli, ma è gente che sa cercare e trovare le parole al di là del dato primario e sanno in qualche modo trasformarlo. E poi ma anche Maria Rosaria Valentini lo fa benissimo, perché ce le presenta così. Devo dire che questa è una domanda che torna sempre e alla quale mi permetto sempre di non rispondere, perché ho bisogno di rifletterci, non lo so. Aspettiamo Maria Rosaria Valentini alla sua prossima opera, magari ci darà una risposta. Grazie a tutti. Vi ringrazio, grazie. Grazie. Grazie a voi.